Capitolo 3. Ormai eravamo arrivati a un punto in cui dovevamo scegliere tra due alternative. Avevamo esaurito gli argomenti, pertanto o smettavamo del tutto di agitarci, come avevano fatto i suffragisti degli anni Ottanta, oppure passavamo all'azione e continuavamo ad agire, finché non fossimo riuscite ad abbattere l'egoismo e l'ostinazione del governo o a distruggere il governo stesso. Fino a quando non lo avessimo messo con le spalle al muro, sapevamo che il governo non avrebbe concesso il voto alle donne. Afferrammo la verità contenuta nelle parole di John Bright, pronunciate mentre si dibatteva sul progetto di riforma del 1867. Il Parlamento, dichiarò allora John Bright, non ha mai preso a cuore alcuna riforma. Il Reform Act, la legge sulla rappresentanza del popolo del 1832, era stato strappato di forza dal governo del tempo e prima di poterne ottenere un altro, disse, gli agitatori dovrebbero riempire le strade di gente da Charing Cross all'abbazia di Westminster. Seguendo il suggerimento di John Bright, invitammo pubblicamente la gente a unirsi a noi per effettuare un'enorme manifestazione davanti alla Camera dei Comuni il 30 giugno. Volevamo essere sicure che il governo vedesse e interpretasse il nostro immenso seguito. Nello stesso momento fu proclamato un pubblico annuncio da parte del commissario di polizia con cui si ammoniva il pubblico a non radunarsi nella piazza del Parlamento e si dichiarava che le vie d'accesso al Parlamento dovevano essere lasciate libere. Insistemmo a far circolare l'annuncio che la manifestazione si sarebbe tenuta e io scrissi una lettera al signor Asquith dicendogli che una delegazione lo avrebbe aspettato alle 4:30 di pomeriggio del 30 giugno. Convocammo il consueto Parlamento delle donne alla Caxton Hall, dopodiché io, la signorina Packing Lawrence e altre 11 donne ci mettemmo in cammino. Non incontrammo opposizione da parte della polizia, anzi, marciammo in mezzo a una folla di spettatori che ci incoraggiavano fino alla Strangers Entrance della Camera dei Comuni. Qui fummo accolte da un consistente gruppo di uomini ignari, comandati dall'ispettore di polizia Scantlebury. L'ispettore, che io conoscevo personalmente, si fece avanti e domandò in tono ufficiale: Siete voi, signora Pankhurst, e questa è la vostra delegazione? Sì, risposi. Ho avuto ordine di allontanarvi dalla Camera dei Comuni. Signora Asquith, ha ricevuto la mia lettera? Chiesi. Per tutta risposta, l'ispettore estrasse la mia lettera dalla sua tasca e me la porse. Il signor Asquith non manda nessun messaggio? Nessun tipo di risposta? Chiesi ancora. No, rispose l'ispettore. Girammo i tacchi e ci incamminammo verso la Caxton Hall per riferire alle donne che ci aspettavano cosa era successo. Decidemmo che non potevamo far altro che attendere pazientemente fino a sera e vedere poi come la gente avrebbe risposto al nostro invito di trovarci tutte alla piazza del Parlamento. Sapevamo che le strade erano già piene di gente e per quanto fosse ancora presto, la folla andava rapidamente aumentando. Alle 8 uscimmo a gruppo dalla Caxton Hall e trovammo la piazza del Parlamento stipata all'inverosimile da una folla stimata, il giorno dopo, in 100.000 persone. Dai gradini degli edifici pubblici, dai muretti di pietra, dalle ringhiere di ferro di Palace Yard, a cui si aggrappavano in posizione precaria, le nostre donne tennero discorsi finché la polizia non le buttava giù e le spingeva tra folla ondeggiante ed eccitata. Alcune donne furono arrestate. Ad altre fu intimato solamente di spostarsi. Grida di tifo e di scherno si levarono insieme dalla folla. Alcuni uomini erano teppisti venuti solo per divertirsi, altri erano genuinamente solidali e cercarono valorosamente di aiutarci a raggiungere la Camera dei Comuni. Rompemmo più volte lo schieramento della polizia e fu solo grazie alle ripetute cariche della polizia a cavallo che l'attacco della folla venne respinto. Molti parlamentari, tra cui Lloyd George, Winston Churchill ed Herbert Gladstone, uscirono ad assistere alla battaglia, che si protrasse fino a mezzanotte e si concluse con l'arresto di 29 donne. Due di queste furono arrestate per aver scagliato un sasso contro una finestra della residenza ufficiale di Asquith, a Downing Street. Il valore della finestra si aggirava sui $2,40. Questa fu la prima finestra rotta della nostra storia. La signora Mary Late e la signorina Edith New, che avevano scagliato le pietre, mi mandarono un messaggio dal tribunale di polizia per per dirmi che avendo agito senza tenersi alle consegne, non si sarebbero risentite se fossero state ripudiate dal quartier generale. Ben lungi da ripudiarle, andai a trovarle in cella e assicurai loro la mia approvazione per quello che avevano fatto. La rottura di una finestra è un modo radicato di dimostrare il malcontento in una situazione politica. Come disse correttamente un giornale nel commentare la vicenda, quando il re e la regina pranzarono ad Epsley il 13 del mese, vennero ricevuti in stanze le cui finestre il duca di Wellington fu costretto a proteggere con imposte di ferro dalla furia dei suoi avversari politici. Alcuni anni fa, a Winchester, tanto per fare un esempio, si verificarono aspri scontri in seguito a una protesta contro il trasferimento di uno storico cannone da una parte all'altra della città. Nel corso di quei tumulti, le finestre furono sfasciate, proprietà di vario genere furono distrutte. E nel complesso vennero fatti parecchi danni. Non fu comminata alcuna pena per questi disordini e le autorità, piegandosi al volere pubblico espresso in maniera tanto rivoltosa, riportò il cannone nella posizione originaria. Rompere le finestre, se lo fanno gli uomini inglesi, è considerato sincera espressione di un'opinione pubblica. Rompere le finestre, se lo fanno le donne inglesi, è trattato come un crimine. Nel condannare la signora Mary Leight e la signorina Edith New a 2 mesi di detenzione nella prima divisione, il magistrato usò un linguaggio assai severo e dichiarò che una cosa del genere non sarebbe mai più dovuta succedere. Naturalmente le donne gli garantirono che sarebbe successa ancora. La signora Leight disse: «Non abbiamo altra scelta che ribellarci all'oppressione e, se necessario, ricorrere alle maniere forti». Questa lotta continua. L'estate del 1908 viene ricordata come una delle stagioni più calde e opprimenti che il paese abbia conosciuto in molti anni. Le nostre detenute a Holloway soffrirono moltissimo. Alcune si ammalarono seriamente per il caldo, l'aria cattiva e il cibo pessimo. Anche noi che avevamo speso l'estate facendo la nostra campagna soffrimmo, ma di meno. Fu un gran sollievo quando arrivarono le fresche giornate autunnali e con rinnovato vigore ci preparammo all'apertura del Parlamento, fissata per il 12 ottobre. Decidemmo di inviare nuovamente una delegazione al Primo Ministro e invitammo nuovamente il pubblico in genere a partecipare alla nostra manifestazione. Avevamo stampato migliaia di volantini con scritto «Uomini e donne, aiutate le suffragette ad assalire la Camera dei Comuni, martedì sera, 13 ottobre, alle 7:30». Domenica 11 ottobre tenemmo una grande riunione a Trafalgar Square. Mia figlia Christabel, la signora Drummondon e io parlammo dal plinio del monumento a Nelson. Lloyd George, come venimmo a sapere più tardi, era tra il pubblico. La polizia era presente e prendeva abbondantemente nota dei nostri discorsi. Ci eravamo accorte che ci teneva d'occhio ogni giorno, seguiva i nostri passi e mostrava in vari modi di stare eseguendo l'ordine di non perdere mai le nostre tracce. L'apice fu toccato a mezzogiorno del 12 ottobre, quando io, Christabel e la signora Drummond ricevemmo un corposo documento legale che recitava: «È stata oggi depositata un'informativa dal commissario di polizia che voi, nel mese di ottobre, nell'anno 1908, vi siete rese colpevoli di una condanna tale di avvelare la pace introducendo o causandole l'introduzione, pubblicando o causandone la pubblicazione di un certo volantino, con cui si invita e si incita il pubblico a compiere un certo atto indebito e illegale, ovvero assaltare la Camera dei Comuni alle 7:30 p.m. del 13 ottobre del corrente mese». L'ultimo paragrafo era un mandato di comparizione alla stazione di polizia di Bow Street, quello stesso pomeriggio alle 3. Non andammo alla stazione di polizia. Andammo invece a un affollato ricevimento alla Queen's Hall, dove, come si poteva immaginare, la notizia aveva provocato grande fermento. Il luogo era circondato da poliziotti e gli agenti giudiziari erano impegnati a produrre rapporti stenografici di tutto ciò che veniva detto dal palco. D'un tratto qualcuno gridò concitatamente che la polizia stava venendo ad arrestarci. Ma l'ufficiale si limitò a consegnarci un messaggio con cui ci informavano che il mandato di comparizione era stato posticipato al mattino seguente. Non ci piaceva l'idea di rispettare l'aggiornamento del mandato tanto presto. Così scrissi una garbata nota alla polizia dicendo che ci saremmo fatti trovare al nostro quartier generale, al numero 4 di Clemens Inn, il pomeriggio successivo alle 6 e lì saremmo stati a disposizione. Fu rapidamente messa un'ordinanza di arresto nei nostri confronti e l'ispettore Jervis fu incaricato di eseguirla immediatamente. Non gli sarebbe stato possibile, dato che la signora Drummond stava trascorrendo i suoi ultimi giorni di libertà per affari privati, mentre io e mia figlia ci eravamo ritirati in un'altra parte della Clemens Inn, che è un edificio grande e regolare. Restammo lì tutto il giorno, sul terrazzo dell'appartamento dei Peckett Lawrence, sotto il morbido cielo azzurro d'autunno, occupandoci del nostro lavoro e preparandoci a una lunga assenza. Alle 6 scendemmo di sotto, vestite per uscire. La signora Drummond ci raggiunse subito. Il funzionario che ci attendeva lesse l'ordinanza. E procedemmo tutti insieme in carrozza verso Bow Street. Si era fatto troppo tardi per svolgere il processo. Chiedemmo di essere rilasciate su cauzione, ma le autorità non avevano alcuna intenzione di lasciarci partecipare all'assalto che avevamo istigato e così fummo costrette a passare la notte alla stazione di polizia. Rimasi sveglia tutta la notte, col pensiero rivolto a quello che stava succedendo per le strade. La mattina dopo, in un'aula di tribunale, piena in ogni ordine di posto, mia figlia si fece avanti per sostenere il suo primo caso davanti alla legge. Se n'era guadagnato il diritto alla laureandesi in giurisprudenza, ma dal momento che alle donne in Inghilterra non è consentito praticare l'avvocatura, non era mai comparsa in aula se non in qualità di imputata. Ora si propose di combinare i due ruoli di imputata e avvocato e di condurre la causa a nome di noi tre. Iniziò chiedendo al magistrato di non trattare il caso in quell'aula, ma di indire un regolare processo dinanzi a una corte e una giuria. Avevamo a lungo desiderato portare i casi delle suffragette davanti ai rappresentanti dei privati cittadini, perché avevamo tutte le ragioni di sospettare che i funzionari dei tribunali di polizia agissero sotto il comando diretto delle stesse persone presso cui erano indirizzate le nostre dimostrazioni. Il processo con la giuria ci fu negato. Ma dopo aver espletato i preliminari, il magistrato Curtis Bennett concesse un rinvio di una settimana per preparare il caso. Il processo riprese il 21 ottobre, con l'aula di giustizia strapiena come la prima volta e il tavolo della stampa ancora più affollato, poiché si era data grande risonanza al fatto che avessimo chiamato a comparire due membri del governo che avevano assistito alle scene della notte del 13 ottobre. Il primo testimone a salire sul banco fu Lloyd George. Cristabel lo incalzò a lungo sul significato e il valore della parola assalto e riuscì a metterlo molto a disagio. E l'accusa che ci veniva rivolta parve inconsistente. Poi lo interrogò sui discorsi che aveva sentito a Trafalgar Square e gli chiese se qualcosa gli avesse fatto intendere che erano state distrutte delle proprietà e che era stata usata violenza sulle persone. Lui ammise che i discorsi erano moderati e la folla disciplinata. All'improvviso poi Cristobal gli domandò: «Si è detto forse qualcosa che incitasse alla violenza come faceste voi, a Swansea, asserendo che le donne dovrebbero essere sbattute brutalmente fuori dalle vostre riunioni?» Lloyd George si rabbuiò e non rispose. Il magistrato corse in aiuto di Lloyd George. «Questo è del tutto irrilevante», disse. Quella era una riunione privata. Era una riunione pubblica. E Cristabel lo ribadì. Era una riunione privata in un certo senso, insisté il magistrato. Lloyd George assunse un'aria altezzosamente sdegnata quando Cristabel gli chiese: Noi abbiamo forse ricevuto incoraggiamento da voi e, se non da voi, dai vostri colleghi a intraprendere azioni di questo tipo? Lei Giorgio roteò gli occhi e rispose: Mi sorprende molto sentire questa cosa, signorina Pankhurst. È vero o no, chiese Cristabel, che siete stati voi stessi a fornirci un esempio di ribellione? Io non ho mai incitato una folla alla violenza, esclamò il testimone. Nemmeno nel caso del cortile gallese? Incalzò lei. No, urlò lui stizzosamente. Non siete stato voi a ordinare di abbattere un muro e riesumare un corpo? Seguitò Cristabel. Questo non poteva negarlo, ma disse con asprezza: diedi solo un consiglio che la Corte d'Appello riconobbe come una consulenza legale e si spostò il più possibile indietro sul piccolo palco dei testimoni. Herbert Glaston aveva richiesto di essere ammesso a testimoniare presto, poiché aveva seri impegni istituzionali. Christabel chiese invece che fosse ascoltata un'altra testimonianza prima di Gladstone. La testimone era la signorina Georgiana Brankberry, che di recente si era fatta 6 settimane di galera per la causa e da allora aveva incontrato e parlato con Horace Smith, il magistrato, che le aveva rilasciato l'importante e compromettente confessione dell'interferenza del governo nei processi delle suffragiste. Christabel le pose una sola domanda. Il signor Horace Smith, nel condannarla, le disse che stava facendo solo quello che le avevano detto di fare? Non deve fare questa domanda, esclamò il magistrato. Ma la testimone aveva già risposto sì. In aula ci fu un moto di agitazione. Era stato verbalizzato sotto giuramento che un magistrato aveva ammesso che le suffragette venivano condannate non da lui stesso, in base alle prove e in base alla legge, ma dal governo, perché a quel punto nessuno poteva dubitare da dove provenissero gli ordini per Horace Smith. Il signor Gladstone, paffuto, calvo e rubicondo, non ricorda in alcun modo il suo illustre genitore. Salì al banco dei testimoni con aria seria e sorridente, ma la sua compiacenza svanì, non appena Christabel gli chiese apertamente se il governo avesse ordinato al commissario di polizia di prendere questo provvedimento contro di noi. Naturalmente il magistrato intervenne e Glaston non rispose alla domanda. Christabel provò di nuovo. Avete istruito voi Horace Smith a procedere contro la signorina Brankberry e a mandarla in carcere per 6 settimane? Anche questa domanda ricevette un'obiezione, perché erano tutte domande sul merito. Per l'intero interrogatorio il magistrato intervenne costantemente per trarre d'impaccio il ministro, ma alla fine Christabel riuscì a far ammettere a Gladstone, punto per punto, di aver detto che le donne non avrebbero mai conquistato il diritto di voto perché non si battevano per la causa come si erano battuti gli uomini. Un gran numero di testimoni rilasciarono deposizioni sulla regolarità con cui si era svolta la manifestazione del 13 e quindi Christabel si alzò per fare la sua arringa. Incominciò dichiarando che questi provvedimenti erano stati presi, come si dice in gergo legale, con premeditazione e intento vessatorio, allo scopo di indebolire un avversario politico. Dichiarò inoltre che dal punto di vista legale l'accusa che poteva essere mossa contro di noi era soltanto quella di assemblea illegale, ma il governo non ci aveva accusato di questa violazione, perché il governo voleva portare il caso davanti a un tribunale di polizia. Le autorità non hanno il coraggio di far svolgere questa causa davanti a una giuria, aggiunse, perché sanno perfettamente che se fosse ascoltata da una giuria di nostri compatrioti, noi verremmo assolte, come fu assolto John Birch anni fa, per aver attentato alla pace pubblica in maniera assai più pericolosa di come abbiamo fatto noi. Siamo state private di un processo con giuria. Siamo inoltre private del diritto di appellarci contro la decisione del magistrato. Questa procedura è stata studiata indubbiamente con molta attenzione. Quanto al volantino disse, non neghiamo di aver fatto circolare questo foglio. Nessuno di noi vuole negare le sue responsabilità. Abbiamo distribuito il volantino, abbiamo fatto in modo che circolasse. Ci abbiamo scritto sopra le parole accorretti in aiuto delle suffragette per dare l'assalto alla Camera dei Comuni. Per queste parole non intendiamo scusarci. È risaputo che abbiamo preso questa iniziativa al fine di avanzare una rivendicazione, cosa che per la Costituzione britannica siamo autorizzati a fare. In tutto quello che avevano fatto, in tutto ciò che avrebbero mai fatto in futuro, dichiarò mia figlia, le suffragette stavano solo seguendo le orme degli uomini, che ora si trovavano in Parlamento. Il signor Herbert Glaston ci ha insegnato col suo discorso che la vittoria delle parole non basta. E siccome non possiamo sperare di vincere solo con la forza degli argomenti, è necessario prevalere con altri mezzi sulla barbara resistenza del governo alla nostra rivendicazione di cittadinanza. Lui dice: andate, combattete come hanno fatto gli uomini. E poi, quando dimostriamo la nostra forza e convinciamo la gente a sostenerci, prende delle misure contro di noi, in modo che sarebbero stati vergognosi anche ai tempi della coercizione. Poi c'è il signor Lloyd George, che se mai un uomo l'ha fatto ci ha fornito un esempio da seguire. Tutta la sua carriera è stata una serie di ribellioni. Ha detto che se non riusciamo a ottenere il diritto di voto, segnatevi queste parole, siamo giustificate ad adottare i metodi che hanno adottato gli uomini, ossia buttare giù le cancellate di Hyde Park. Cito poi Lord Morley, che a proposito della resistenza indiana disse: siamo in India alla presenza di un movimento attivo e un movimento per cosa? Per obiettivi che noi stessi abbiamo indotto loro a considerare validi obiettivi, a meno che non saremo capaci di riportare l'ordine dando soddisfazione a quegli ideali e a quelle aspirazioni. La colpa non sarà la loro, sarà la nostra. Segnerà il collasso della scienza politica britannica. Applicate queste parole al nostro caso, proseguì. Ricordatevi che noi stiamo chiedendo agli statisti liberali quello che per noi è il dono più grande e il diritto più essenziale. E se l'attuale governo non sa far conciliare l'ordine con la nostra richiesta di voto senza rimandare ancora, questo porterà al collasso della sua capacità di governare. Sì, la sua arte di governare si è già guastata, sono caduti in disgrazia. È solo in questa corte di giustizia che hanno la minima speranza di trovare qualche sostegno. Mia figlia aveva parlato con ardore e passione e il suo legittimo sdegno le aveva fatto uscire di bocca parole che avevano fatto diventare il magistrato rosso di rabbia. Quando toccò a me parlare alla corte, cominciai assumendo un'aria calma che non corrispondeva affatto a come mi sentivo. Sottoscrissi tutto quello che aveva detto Christabel a proposito dell'iniquità del nostro processo e della cattiva fede del governo. Protestai contro il processo di imputati politici in un normale tribunale di polizia e dissi che noi non eravamo donne che dovevano comparire davanti alla corte come delinquenti comuni. Descrisse la meritevole carriera della signora Drummond come moglie, madre e donna d'affari autonoma. Dissi: prima che decidiate cosa fare di noi, vorrei raccontarvi che cosa mi ha portato sul banco degli imputati stamattina. E quindi parlai della mia vita e delle mie esperienze, molte delle quali già narrate in queste pagine, delle cose che avevo visto e conosciuto come membro dei tutori della Poor Law e archivista delle nascite e delle morti, di come avevo preso coscienza dell'urgente bisogno di cambiare la condizione delle donne e di modificare la legge che regola la loro vita e quella dei loro figli e del fondamentale atto di giustizia per rendere le donne cittadine autonome. Ho visto, dissi, che gli uomini sono incoraggiati dalla legge ad approfittarsi dell'impotenza delle donne. Molte donne la pensano come me e per tanti, tanti anni hanno cercato con quell'influenza che ci è stata così spesso attribuita di cambiare queste leggi. Abbiamo scoperto che quell'influenza non conta nulla. Quando ci presentavamo alla Camera dei Comuni, ci sentivamo dire, se provavamo a insistere, che i parlamentari non avevano responsabilità verso le donne, avevano responsabilità solo verso gli elettori. E che erano troppo impegnati per trovare il tempo di riformare queste leggi, anche se concordavano che avessero bisogno di essere riformate. Noi donne abbiamo presentato un maggior numero di petizioni in favore della nostra emancipazione di quante ne siano mai state presentate per qualsiasi altra riforma. Siamo riuscite a organizzare riunioni pubbliche più grandi di quanto abbiano fatto gli uomini per qualunque riforma. A dispetto delle difficoltà che le donne incontrano nel superare le loro naturali timidezze, quel desiderio di evitare la pubblicità che abbiamo ereditato dalle generazioni delle nostre antenate. Le abbiamo superate. Abbiamo fronteggiato bande ostili agli angoli delle strade, perché ci avevano detto che non potevamo avere quella rappresentazione delle nostre istanze che gli uomini si erano conquistati se prima non avessimo convinto il paese intero a schierarsi dalla nostra parte. Quando l'abbiamo fatto, siamo state rappresentate male, siamo state schernite, siamo state vilipese. La folla ignorante è stata incitata a usarci violenza. E noi l'abbiamo affrontata disarmate, senza alcuna delle tutele di cui godono i ministri del governo. Siamo state costrette a farlo. Siamo determinate ad andare avanti con questa agitazione, perché ci sentiamo in dovere di farlo, proprio come lo era per i vostri antenati. È nostro dovere rendere il mondo per le donne un posto migliore di come oggi. Infine, voglio richiamare l'attenzione sull'autocontrollo dimostrato dalle nostre sostenitrici la notte del 13, dopo che eravamo state arrestate. La nostra regola è sempre stata di avere pazienza, di esercitare l'autocontrollo, di fare vedere ai nostri cosiddetti superiori che non siamo delle isteriche, di non usare la violenza, ma anzi di offrirci alla violenza degli altri. Questo è tutto ciò che ho da dirvi, signore. Noi siamo qui non perché vogliamo infrangere la legge, siamo qui perché le leggi vogliamo farle. I massicci poliziotti, i giornalisti e molti degli spettatori erano in lacrime quando terminai, ma il magistrato, che era rimasto ad ascoltare, tenendosi per parte del tempo una mano sulla faccia, continuò a sostenere che fosse giusto processarci in un tribunale di polizia come istigatrice alla rivolta. Poiché ci rifiutammo di accettare di sospendere le agitazioni per mantenere la pace, condannò me e la signora Drummond a 3 mesi di galera e Christabel a 10 di settimane. Era destinato ad essere un tipo di carcerazione con cui le autorità non erano mai state chiamate a fare i conti prima.